as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui al Pane delle Rose. Oggi puntata post vacanze, iniziamo il nostro palinsesto del Pane delle Rose con una manifestazione, uno sciopero che non avremmo mai voluto fare. Questo è stato detto da più persone. Ieri 18 settembre all'aeroporto di Bologna eravamo in tanti. È stato uno sciopero confederale di CGIL, CISL e UIL con manifestazione, perché il 16 settembre alle 3 di notte è morto un operaio, Alfredo Morgese, facciamo nome e cognome di questo lavoratore, un operaio di 52 anni di Marano sul Panaro, del modenese, lavorava per questa azienda Frantoio Fondovalle SRL da 14 anni, dunque un operaio esperto, certa età, e stavano rifacendo il manto stradale dell'aeroporto. È rimasto schiacciato dal mezzo, che anche lui era lì sopra prima di morire. Stavano mettendo il bitume a terra, era sceso per fare dei lavori e il suo collega ha fatto retromarcia, non l'ha visto e l'ha ucciso. Chiaramente, se avete letto i giornali, subito le indagini sono spostate sulle responsabilità dei lavoratori, il suo collega che l'ha investito, della ditta, per vedere se non sono state rispettate alcune norme di sicurezza, e l'aeroporto è stato subito scagionato. Lui non è responsabile, ha dato il lavoro in appalto, assolutamente non ha nessuna responsabilità. Immediatamente tutti i giornali di Bologna hanno assolto le responsabilità dell'aeroporto. Questo ci fa capire perché le grosse aziende, sia pubbliche che private, tendono ad appaltare i lavori a soggetti terzi e a fare appalti, su subappalti. Abbiamo visto quello che è successo in Piemonte. Abbiamo fatto un'ora di sciopero, noi Buonfiglio Riduttori siamo stati tra i pochi. Io lavoro in un'azienda, Buonfiglio Riduttori, in cui i lavoratori, ogni volta che c'è una strage, un lavoratore che muore, noi ci mobilitiamo. Per noi non è una cosa, non ci rassegniamo. E scioperiamo perché non pensiamo che le responsabilità siano dovute al lavoratore. Noi ci atteniamo a quello che è previsto dalla legge, dall'81, in cui è chiaro che il datore di lavoro è sempre il responsabile, soprattutto quando appalta. Questo non significa che non ha nessun tipo di responsabilità. Purtroppo in questi anni tutti i governi che si sono succeduti hanno scaricato invece le responsabilità sempre più verso il basso, togliendosi tantissime responsabilità, e la colpa è sempre del lavoratore. La manifestazione è stata una bella manifestazione. Siamo usciti dalla fabbrica con tante difficoltà, perché chiaramente l'aeroporto di Bologna era bloccato, per arrivare lì è stata dura, anche se noi siamo là vicini a Caldera di Reno. Abbiamo raggiunto il posto, non abbiamo bloccato come avremmo voluto tutto l'aeroporto, ma certamente è stato creato molto disagio. La manifestazione è durata poco, non circa un'oretta. Si sono susseguiti gli interventi come di routine che avvengono sempre, dei vari politici, vari segretari, delle tre sigle confederali. Noi abbiamo intervistato Michele Bulgarelli, adesso lo sentirete dopo questo pezzo musicale. E niente, adesso ascoltiamo questo pezzo che fa sempre riflettere, che io metto spesso quando succedono queste disgrazie. Poi ascolteremo Bulgarelli e ci dirà, insomma, il suo punto di vista, il punto di vista della CGIL. Ok, a dopo, ciao. We'll be right back. Dove sono i compagni che possono fermare quelle mani assassine? Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il solo rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Allora, siamo qui oggi all'aeroporto di Bologna, uno sciopero che non volevamo fare, siamo tutti quanti d'accordo con te. Oggi veramente è uno sciopero di quelli che proprio non si dovrebbero mai fare, ma è d'obbligo farlo. Siamo qui con Michele Bulgarelli, segretario della CGIL di Bologna, una manifestazione abbastanza riuscita. Devo dire che, insomma, per tutte le difficoltà del posto, insomma, io per arrivare qua ci ho messo una vita. Insomma, dici qualcosa insomma su questo sciopero, quello che è successo, quello che il CGIL vuole fare, quello, insomma, parlaci un po'. No, era uno sciopero che non volevamo fare, ma era giusto di fronte all'ennesima tragedia sul lavoro tornare ai fondamentali del sindacato. Di fronte a un morto sul lavoro la prima reazione, anche per rispondere collettivamente, non vivere in solitudine, individualmente, il senso di impotenza, era scioperare. Per cui io sono anche... ringrazio CISL e UIL che hanno accolto la proposta di fare uno sciopero generale territoriale di 2 ore, che è stato di 4 ore per tutto il sito aeroportuale e per il settore dell'edilizia. La manifestazione è pienamente riuscita. Da questo palco noi abbiamo voluto raccogliere anche l'appello importante del Presidente della Repubblica, che interroga noi dobbiamo fare di più. Dire la sicurezza al primo posto richiede coerenza contrattuale, significa che in ogni vertenza non c'è anche la salute e sicurezza, ma si deve partire da salute e sicurezza, condizioni di lavoro, tempi, carichi. Significa che non si può più vedere un accordo dove ci sono premi sulla riduzione degli infortuni o premi sulla malattia. Però significa anche che le imprese devono fare di più. Abbiamo un sistema produttivo simile a quello tedesco, ma abbiamo 3 morti ogni 100.000 occupati contro gli 0,96 morti che ci sono in Germania, quindi imprese troppo piccole, imprese che non investono, imprese con una classe dirigente interna che studia come tagliare le pause e non come far star meglio i lavoratori, fino ai casi anche documentati in cui capi ti dicono se ti fai male al lavoro che sarebbe meglio che dici di esserti fatto male a casa. Quindi abbiamo un sistema delle imprese che deve fare tanto. Il sindaco di Bologna, che rappresenta il corteo, ha convocato il 3 ottobre un tavolo metropolitano. Io penso che ancora una volta Bologna può dare indicazioni e pratiche concrete a partire dal fatto che le nostre RLS sono un bene prezioso e non vanno lasciati soli né dal sindacato ma neanche dal sistema pubblico di vigilanza. Quello che ti chiediamo sono proposte di tipo sindacale, contrattuali, se la CGIL ha in testa qualcosa a livello contrattuale, e proposte politiche da fare al governo, perché il governo ha le responsabilità su tutto questo. Mi sembra che il governo vada nella direzione opposta, dal nuovo codice appalti che chiediamo di cancellare, alleggevola il rischio che le ore di formazione obbligatoria passino sull'ingresso al lavoro da 16 a 10, quindi il governo va nella direzione di scaricare sui lavoratori le responsabilità, perché non si può sentire un ministro della Repubblica che parla di errore umano per la strage di Brandizzo. Cosa può fare la CGIL? Io penso che una parte del disastro che c'è in Italia sia dovuta alla giungla degli appalti e subappalti e alla troppa precarietà che produce ricattabilità nelle persone, perché si muore di appalti, subappalti, precarietà e illegalità, perché se sei in un campo del sud, sotto al sole, privo di permesso di soggiorno, come fai a rivendicare il rispetto di giuste condizioni di lavoro? Quindi penso che la CGIL, nella sua campagna che sta svolgendo in questi giorni, di mobilitazione verso le piazze dell'autunno, verso lo sciopero generale, debba assumere la lotta senza quartiere alle precarietà, che per un lavoro degno, un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro sicuro, è anche un posto di lavoro dove, tra l'altro, anche secondo i dati dell'Osservatorio di Bologna sui morti sul lavoro, un luogo di lavoro dove c'è la lotta alla precarietà, c'è lavoro stabile, c'è un lavoro con dei diritti, un luogo di lavoro sindacalizzato, è un luogo di lavoro più sicuro. Un'altra cosa ti volevo chiedere: l'operaio che è morto era degli edili. Gli edili sono un po' di tempo che stanno facendo una battaglia sul reato di omicidio sul lavoro. Cosa questo possa servire tutto, ma mi sembra che in Italia non c'è tanto un problema di leggi che mancano, ma c'è un problema di mancato rispetto delle leggi che ci sono. Dunque più controlli, come oggi si è sentito dire. Assolutamente sì. Più ispettori, ma anche un rinnovato ruolo del servizio pubblico che quando entra nel luogo di lavoro torni come l'esperienza degli anni 70 ad ascoltare i lavoratori. Io penso che c'è un il neoliberismo, la svalorizzazione del lavoro ha permeato questo paese e quindi ha permeato anche gli enti pubblici, troppe volte troppo attenti del rispetto solo della norma e non di andare davvero a vedere cosa succede in quel posto di lavoro. Però la questione è anche di penalizzazioni, abbiamo visto anche il caso di quella ragazza che è morta, che sono stati condannati a un anno e mezzo di carcere. Se questo è un problema che noi abbiamo. Certo, è un problema. Spero che qualcosa cambi. Sì, mi sembra che siamo dentro un percorso dell'autunno in cui quello della salute e sicurezza insieme alla difesa dei servizi pubblici dalla scuola alla sanità sia al centro della mobilitazione. Il 7 di ottobre? 7 ottobre, manifestazione nazionale della CGIL a Roma. Salute e sicurezza è un punto che io vorrei non dover vedere più nei volantini, ma anche appuntamento in tutti i luoghi di lavoro, nelle assemblee e per il sostegno all'impegno, alla responsabilizzazione collettiva che bisogna fare ognuno di noi di più anche verso lo sciopero generale. Dunque 7 ottobre tutti in piazza a Roma, per soprattutto anche per la sicurezza, oltre che sì, per il fisco. Ci vediamo in piazza, prendete il vostro posto sui pullman, i treni in partenza da tutta Italia. Okay, grazie Michele. Volevo dirti tante cose ancora, da non saperle ricordare, raccontar di te che dormi mentre corro al lavoro. Avrei voluto aggrapparmi ancora al calore del tuo ventre, dalla mia cella senza sbarre, maledetta linea 5. Tu che corri, insegui le tue cose, le tue spine, le tue rose, non scordarti mai di me. Tu che sogni terre sconfinate e i fantasmi dell'estate, non scordarti mai di me. Thank you. cielo così blu. Non ti scorderai di quel che c'era nelle luci della sera, che non torneranno più. Vivo per no, essere andato a lavorare lo sanno la vita che stiamo facendo noi, sono al cimitero, cimitero e basta. Io esco da lavorare e penso che devo andare al cimitero. Allora, abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo della banda popolare Emilia Rossa dedicato ai morti della ThyssenKrupp. Non mi scorderò di te, perché non dobbiamo dimenticare. Non dobbiamo far finta che è normale che muoiano i lavoratori sui luoghi di lavoro, che è normale uscire di casa e andare a lavorare e morire. Non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare nessuno. Abbiamo ascoltato prima di questo pezzo della banda popolare Emilia Rossa l'intervista a Michele Bulgarelli. Ricordo a tutti quanti che chi si fosse perso la puntata può sempre trovarla in podcast sulla pagina Facebook Il Pane delle Rose, potete trovarlo lì. Troverete anche le vecchie puntate se cliccate sul link del podcast. Prima dell'intervista abbiamo ascoltato I Senza Sicura, Più di Mille, una canzone molto vecchia però purtroppo sempre attuale. Ora, quello che ha detto Michele Bulgarelli è importante. Lui ha parlato soprattutto del fatto che i morti sul lavoro sono frutto certamente di responsabilità delle aziende, ma soprattutto di un problema della precarietà dei subappalti. Questo ci porta a fare una riflessione. C'è un problema di tipo governativo, perché i governi che si sono succeduti, l'ultimo è il peggiore di tutti, chiaramente andiamo sempre peggio su queste due materie, hanno fatto ben poco. C'è stato solamente un piccolo periodo sul decreto dignità, ma si è subito aggirato, no? Subito i padroni sono riusciti a girare il decreto dignità, e però la giungla degli appalti, i subappalti è un problema. Il sindaco ha preso un impegno lì all'aeroporto, un tavolo per discutere di queste questioni di sicurezza. L'aeroporto, così come l'hub logistico, non dimentichiamo che i morti sul lavoro a Bologna hanno due reali posti, che sono la logistica e poi l'aeroporto, cioè i trasporti che poi coinvolgono anche l'edilizia. Non dimentichiamo che sia a Torino che a Bologna erano gli operai edili, perché spesso dove ci sono gli hub, dove ci sono grossi punti in cui ci sono i trasporti, ci sono i lavoratori anche di varie categorie che lavorano. Dunque c'è anche questa questione. Gli edili hanno programmato 4 ore di shopping, anche quelli dell'aeroporto. Gli edili sono anni che sono i più martoriati purtroppo dalle morti sul lavoro, che chiedono l'omicidio sul lavoro. Ora, io ne ho parlato già in passato, Bulgarelli ha detto una cosa giusta, ci sono le leggi, vanno fatte rispettare, però ricordate la lavoratrice che è stata uccisa in Toscana, il suo padrone ha preso un anno e mezzo, ed è stato riconosciuto il fatto che lui non aveva delle mancanze, era responsabile di quello che è successo. Un anno e mezzo, ricordiamo la gente che è morta a Marghera, o la gente sull'amianto, o il fatto a ThyssenKrupp, lo stesso, sono scappati, non hanno mai pagato per quello. Questo è un dato di fatto. Oggi la giustizia è sempre più borghese, è una giustizia e non lo dice il marxista, è un dato di fatto. I padroni non vanno in galera. I colletti bianchi in Italia ce ne sono pochissimi in galera, possono fare di tutto. In galera ci vanno solo i poveracci, in Italia non è un luogo comune, è la realtà dei fatti. Sono anni che questo governo fa di tutto perché quando gli uomini in giacca e cravatta, i Mercedes, commettono dei crimini, vengono sempre depenalizzati. E sempre di più ci fanno odiare i poveri, ci fanno odiare gli ultimi. E invece i ricchi, quelli che lucrano sulla povera gente, sono sempre più, non vengono odiati più. È un serio odio di classe, io penso che sarebbe utile in questo momento. Perché c'è una guerra in atto ormai da tanti anni, addirittura anche il Papa, pensate un po', è un bollettino di guerra, negli ultimi giorni veramente, non dico dell'Ucraina, ma ci sono guerre in cui muoiono meno gente, in Italia è un massacro, l'Ucraina ha detto una cosa giustissima, in Europa i morti sul lavoro sono molto più bassi quelli che in Italia, c'è un problema in Italia. Saranno le piccole aziende, sarà una mancanza di controlli, ma sarà anche il fatto che non ci sono, una situazione sul lavoro veramente devastante. E questo non possiamo far finta di nulla. Serve un cambiamento radicale, serve una vera e propria rivoluzione. Serve che dobbiamo cominciare a cambiare anche i rapporti di forza. I governi, i padroni continueranno a comportarsi così, facendo i loro interessi e facendoci morire, fin quando non imporremo il nostro punto di vista. Ecco perché serve veramente una scelta radicale, un cambiamento radicale, rivoluzionario, per cambiare i rapporti di forza in questo paese, perché ne va della nostra vita, ne va della nostra vita nostra e dei nostri figli. Io vi saluto, questa riflessione, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!